La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato all'attacco di Pearl Harbor. Lo scorso 7 dicembre si è celebrato il 70° anniversario dell'attacco giapponese alla base navale statunitense nelle isole Hawaii, che causò l'intervento degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. Ospite ai nostri microfoni Mario Del Pero, docente di storia e istituzioni delle Americhe all'Università di Bologna. Oggi Michelle e io ci uniamo al popolo americano in onore della memoria dei 2400 patrioti americani, soldati e civili, uomini, donne e bambini, che hanno perso la vita nella nostra prima battaglia della Seconda Guerra Mondiale. Con queste parole il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha rievocato lo scorso 7 dicembre il 70° anniversario dell'attacco giapponese alla base navale statunitense di Pearl Harbor nelle isole Hawaii. Attacco a sorpresa che causò l'intervento degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale, come sappiamo. Era il 7 dicembre del 1941. L'operazione militare di Pearl Harbor viene ideata dall'ammiraglio giapponese Isoroku Yamamoto con un obiettivo: distruggere completamente la base avversaria attraverso una serie di azioni congiunte e simultanee, sfruttando l'elemento sorpresa e la supremazia nei cieli garantita dalle portaerei. L'ammiraglio Yamamoto punta su Pearl Harbor nella convinzione che solo un colpo schiacciante assestato alla principale formazione navale avversaria avrebbe garantito al Giappone una facile conquista dei suoi obiettivi nell'Asia sudorientale. Alle 7:50 del 7 dicembre viene lanciata la prima bomba. Tutti i piloti si concentrarono nell'attacco a 7 corazzate ancorate al centro della rada di Pearl Harbor, scelte come primo obiettivo. I primi 5 siluri colpiscono in pieno la prua e la poppa dell'Oklahoma. La seconda corazzata ad essere affondata è la California, colta in pieno prima da 2 siluri e poi da una bomba da 250 kg. A quel punto gli aerei nipponici si scagliano contro la corazzata Arizona, centrata da un siluro sotto poppa e colpita da una bomba sulla coperta. Poi è la volta della West Virginia, demolita con 3 siluri, ancora della Tennessee e infine della Pennsylvania, la nave ammiraglio della flotta sul Pacifico, che pur essendo protetta da 2 cacciatorpediniere viene colpita e devastata da un incendio. Altre 2 bombe aprono spaventose falle nel ponte della Maryland. Gran parte della flotta americana a Pearl Harbor viene messa rapidamente fuori combattimento, ma è solo l'inizio. Gli aerei giapponesi cominciano a bombardare gli impianti a terra della base. L'effetto è devastante. Alle 8:40 il primo attacco nipponico termina e il primo gruppo si ritira, mentre sta per partire il secondo attacco destinato a completare l'opera di distruzione. Dopo 2 ore, delle 96 navi americane alla fonda nella base, 18 sono fuori combattimento, 5 risultano distrutte, 4 arenate o colate a picco, 9 gravemente danneggiate. Sui campi di aviazione di Oahu giacciono distrutti 188 aerei e altri 159 risultano danneggiati. Si contano i morti e il bilancio è impressionante. 2.403 vittime tra i militari, 68 civili, 1.178 feriti contro i 64 morti giapponesi. Terminata l'operazione, l'ammiraglio Nagumo conferma alle supreme autorità militari nipponiche il pieno successo dell'attacco di sorpresa. Da New York il presidente Roosevelt si rivolge al Congresso con queste parole: il 7 dicembre, data che resterà simbolo di infamia, gli Stati Uniti d'America sono stati improvvisamente e deliberatamente attaccati da forze aeree e navali dell'impero giapponese. Gli Stati Uniti entravano in guerra. L'attacco di Pearl Harbor mutò profondamente l'esito finale del conflitto. Ma Pearl Harbor fu veramente un attacco inatteso o invece qualcuno a Washington sapeva? Roosevelt, insomma, era all'oscuro di tutto o invece con cinico calcolo lasciò che il disastro si verificasse per spingere il paese a entrare in guerra, come sostiene ad esempio lo scrittore Gore Vidal? La domanda da 60 anni aspetta ancora una risposta e noi ne parliamo questa sera con Mario Del Pero, che è docente di storia e istituzioni delle Americhe all'Università di Bologna, che appunto è a New York e sta insegnando proprio a New York per un periodo. Professore, grazie e buona serata. Buonasera a lei e a chi ci ascolta. Allora, la domanda che abbiamo posto nel finale di questa nostra ricostruzione è: Roosevelt sapeva o no? Fu veramente un attacco a sorpresa? Periodicamente riemergono tesi che sostengono che Roosevelt sapesse e desiderasse un attacco di questo tipo. La gran parte degli studiosi, la gran parte degli studi più seri tendono a rigettare questa teoria. Fermo restando che Pearl Harbor fu da un lato un clamoroso fallimento dell'intelligence statunitense, che aveva raccolto, diciamo così, dei pezzi di informazione che probabilmente avrebbero potuto permetterle di prevedere l'attacco, e dall'altro che Roosevelt auspicasse, diciamo così, un pretesto per portare definitivamente il paese in guerra. Gli Stati Uniti erano già impegnati in una sorta di guerra non dichiarata sull'Atlantico, il presidente riteneva inevitabile intervenire in guerra, l'opinione pubblica invece era ancora in maggioranza contraria ad un intervento, ed ecco quindi che una spinta, diciamo così, un pretesto forse sarebbe stato necessario per giustificare l'intervento, ma certo è impensabile che un presidente degli Stati Uniti potesse accettare un attacco di quelle proporzioni che, non dimentichiamolo, inflisse un danno militare rilevante alla marina statunitense e la indebolì molto. A proposito di disastro dell'intelligence, con l'attacco alle Torri Gemelle dell'11 settembre del 2001, molti hanno accostato quel che accadde in America e nel mondo con l'attacco a Pearl Harbor, come dire, due momenti tragici della storia degli Stati Uniti in cui è stata violata in qualche modo la supremazia, l'inviolabilità del territorio degli Stati Uniti. Secondo lei è corretta questa interpretazione e che reazione ci fu a livello anche di immaginario collettivo negli Stati Uniti a quell'attacco? Ci sono indubbiamente delle analogie. Gli Stati Uniti sono un paese che hanno visto raramente violato il proprio territorio con attacchi di questo tipo. Le vittime statunitensi sul territorio statunitense in tempo di guerra sono pochissime, appunto. E Pearl Harbor seguì, se vogliamo, l'attacco britannico nella guerra del 1812-14, quindi più di un secolo, 130 anni passarono tra quella violazione del territorio statunitense e l'attacco di Pearl Harbor. Ci sono delle analogie, come ricordava lei, nel fallimento dell'intelligence, fallimento eclatante nel 1941 così come nel 2001. Ci sono delle analogie nel fatto che l'opinione pubblica statunitense, l'elettore medio statunitense è estremamente riluttante a sostenere e appoggiare politiche estere interventiste, globali e inevitabilmente costose. Ed ecco che due presidenti nel 1941 e nel 2001 si sono ritrovati, diciamo così, con un capitale politico in mano, una disponibilità del paese ad accettare sacrifici in nome della sovranità violata e dell'attacco subito che altrimenti non avrebbero sopportato. Dal punto di vista militare giocò moltissimo evidentemente l'effetto sorpresa, ma come mai non si riuscì in quella base che pure, come abbiamo sentito e visto finora, contava moltissime corazzate, anche una base di tutto rilievo, non si riuscì a mettere appunto una reazione da parte americana? Agì indubbiamente l'effetto sorpresa, l'attacco non fu dichiarato, non fu preceduto da una dichiarazione formale di guerra. Agì una certa, diciamo così, compiacimento della marina statunitense, che se ne stava a Pearl Harbor. Negli anni precedenti era stata impegnata per lo più in parate che portavano le sue navi da San Diego alle Hawaii e ritorno. E quindi una certa quale impreparazione generale sul territorio del Pacifico. Queste forse sono le due spiegazioni principali della sorprendente impreparazione militare, della sorprendente impreparazione con cui si rispose a questo attacco. Ecco, in che modo la reazione degli Stati Uniti poi influenzò l'esito del secondo conflitto mondiale? L'intervento statunitense in guerra fu per molti aspetti decisivo. Gli Stati Uniti mobilitarono appieno un potenziale produttivo, una capacità economica che non aveva pari nel mondo, piegarono, diciamo così, la loro economia alle esigenze della guerra, decisero di anteporre il fronte dell'Atlantico, quindi la guerra contro la Germania nazista, al fronte del Pacifico, furono l'unico paese impegnato davvero in una guerra mondiale e globale, furono costretti a delle scelte che furono delle scelte dolorose, perché la guerra sul Pacifico fu particolarmente difficile, se non terribile, per chi la dovette combattere nel 42-43, quando appunto il teatro del Pacifico fu subordinato a quello dell'Atlantico. L'impatto più forte forse lo si ebbe all'interno degli stessi Stati Uniti. Il 1941 l'intervento in guerra segna la chiusura definitiva di una fase di isolazionismo radicale del decennio precedente e segna il momento davvero dell'ascesa globale degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti diventano potenza globale, diventano la principale potenza del sistema internazionale ed è questo globalismo statunitense, come lo chiamano gli studiosi, è tollerabile, accettabile, fin anche invocato dall'opinione pubblica interna in nome anche in conseguenza di quello che era accaduto l'8 dicembre 1941. A quel punto non è più possibile tornare indietro, non è più possibile immaginare di poter separare le sorti degli Stati Uniti da quelle del resto del mondo. Un'ultima domanda, professor Del Pero. Lei sta insegnando a New York. Che America ha trovato? È difficile. È un'America sicuramente, come dire, preoccupata per quanto sta accadendo sul piano interno, per una situazione economica che rimane molto difficile perché ha tassi di crescita del prodotto interno lordo comunque soddisfacenti, non corrisponde a una ripresa dell'occupazione, è sicuramente un'America più disattenta a cosa accade nel resto del mondo, concentrata come su se stessa. Dal punto di vista militare, certamente questi due episodi che abbiamo raccontato, che sono quelli più tragici della storia recente degli Stati Uniti, Pearl Harbor e l'11 settembre, certamente hanno indotto gli Stati Uniti anche a rivedere il proprio sistema di intelligence. Non solo di intelligence, a quel punto evitare un'altra Pearl Harbor diventa la giustificazione primaria per costruire un poderoso apparato di sicurezza nazionale. Negli Stati Uniti l'idea che si potesse creare un sistema di sicurezza nazionale così esteso, ramificato e così oneroso era stato spesso osteggiato, era stato spesso presentato come antitetico alla libertà repubblicana statunitense. Dopo il 1941 questa opposizione diventa più difficile da sostenere. Si crea un imponente, dicevo, apparato di sicurezza, un dipartimento della difesa, un sistema di intelligence, si investe molto in difesa e in sicurezza e in una certa misura questo ritorna dopo l'11 settembre 2001, se vogliamo continuare in questo parallelo tra i due eventi, perché l'11 settembre 2001 giustifica la ripresa, l'estensione di un ramificato sistema di sicurezza e anche di controllo interno e un imponente aumento delle spese nel settore della difesa e in quelli adesso correlati. Grazie professore, molti auguri per il suo lavoro. La ringrazio, buon lavoro.